Palla Spicchi con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Franco Pietrelli in redazione, Pietro Lacorte in regia. Omar da Bologna già si scrive un sms 349-238-6666. È nato prima l'uovo o la gallina? Il brutto momento di Bargnani è causa della crisi di Toronto o il brutto momento di Toronto è causa della crisi del mago? Non saprei, probabilmente tutte e due le cose. 800-24-0024 per le vostre telefonate. Finalmente con noi una penna storica del nostro basket, Bigo, Oscar Alleni. Ciao Oscar. Buongiorno a tutti. E buongiorno al coach. Ciao coach. Ciao a Carlo, ciao Oscar, un abbraccio. Ciao Peterson. Coach, la settimana più difficile, io e Oscar ne stiamo già parlando da un po', la settimana più difficile per te, io credo, da quando sei tornato. Assolutamente, perché veniamo da una sconfitta assolutamente brutta e sai, bisogna riprendere strada per vittoria prima della Coppa Italia, quindi via in casa a mezzogiorno meno 15 minuti di domenica, una buona squadra ben allenata che ha avuto anche dei risultati, una sbancata a Treviso, il che noi non siamo stati in grado di fare, altre belle vittorie. Oggi sarebbe la squadra sesto posto dentro i playoff, squadra qualificata per la Coppa Italia, quindi assolutamente la partita forse più difficile di quando sono tornato in banchina, sono d'accordo. Vai Oscar. No, è una partita difficile, soprattutto se i giocatori entrano con la testa di Treviso. Se invece entrano con la testa delle prime due o tre partite, probabilmente non sarà una partita difficile. Ma ho sentito che ti sei portato dietro la sfortuna dei predecessori, perché l'infortunio di Eze cambia tutto di nuovo. Well, yeah, Eze è fuori, salta questa partita e probabilmente anche la Coppa Italia. Però è uno stiramento proprio al popare, dietro la coscia del primo grado, cioè non quello gravissimo, ok? Quindi dovremmo recuperarlo in abbastanza tempo dovuto. Allo stesso tempo Petravic sta migliorando giorno per giorno, non so se combacerà con la Coppa Italia o meno, ma una mini speranza c'è, perché qualche cosa ha già fatto con noi e mi ha fatto una buonissima impressione. Non combacia mai Petravic con i sogni del pubblico di Milano, perché in pratica non l'hanno mai visto. E la cosa di Eze mi preoccupa, perché sempre probabilmente è lo stesso problema muscolare che ha avuto Pečarov, quindi no, è strano, fai qualcosa in allenamento che non facevi una volta No. E lui, ma guarda, è l'infortunio, Oscar, te lo descrivo. Sì. Lui, proprio in presa, ha intercettato una palla, che lui è bravo a questo come sai, e è venuto molto avanti, cioè era quasi davanti ai piccoli, hai capito? Cioè, e non poteva passare la palla, ha dovuto fare due palleggi in traffico, c'era un giocatore lì, e per evitare questo giocatore qui ha piantato il piede ovviamente in maniera sbagliata e si è stirato da solo, non c'era... era già ben riscaldato, eravamo in partita 5 contro 5 così, quindi è stata una cosa stranissima, perché quante volte tu vedi un lungo intercettare una palla e palleggiare, rarissimamente l'ha fatto lui e si è stirato, mai visto io una cosa così. È la sfiga che stava guardando con attenzione, esatto, ci vede benissimo. Beh, perché a Milano erano convinti, dice vabbè, puntiamo sul nonno, però almeno il nonno si porti dietro la fortuna, se non ti porti dietro nemmeno la fortuna è meglio che dai le dimissioni, Peterson. Oscar, grazie per l'appoggio morale. L'appoggio morale, ma scusa un momento, dobbiamo avere il mondo in rosa. Gli incidenti li aveva Siena, e se adesso anche Milano ha gli incidenti, siamo rovinati, anzi sono rovinati. Ma guarda, hai menzionato un paio di giocatori. Innanzitutto Pečarov sta tornando adesso, solo adesso, a essere abbastanza in forma. Avevamo un mordente e Michelore. Michelore, non mi sto ricordando. Magari. E Mancinelli, e Michelore super ieri sera per Siena ovviamente. Stupendo. E Mancinelli stupendo. E Mancinelli che erano fuori un paio di giorni con vomito, febbre, mal di testa, influenza, adesso sono tornati loro abbastanza in forma. Se qualcuno ha saltato l'allenamento, però adesso siamo abbastanza a posto, Mason Rock a posto, gli altri sono a posto, quindi Hawkins a posto, tutti sono abbastanza in forma ci manca veramente solamente Eze e ovviamente Petravic. Quindi, magari l'allenatore. Grazie. Non era per stuzzicarti, però voglio dire, abbiamo bisogno di un Peterson cattivo, perché ti hanno fatto fare una brutta figura a Treviso. Io sarei curioso di chiederti che cosa gli hai detto al primo allenamento dopo Treviso. Ma guarda, diversamente forse di quello che pensa la gente, innanzitutto ho dovuto dire con tutta onestà, come ho detto anche nella post partita, che abbiamo fatto una partita orribile, ok? Questo è essere onesto, cioè siamo stati tutti orribili, cioè, mi metto insieme a voi avete giocato male, io ho allenato male, cioè, abbiamo fatto una figura orribile davanti a tutti, davanti alla televisione, e le mie scuse a Sky per quello che abbiamo fatto. Però ho detto, ho fiducia in me, ho fiducia in voi, ho fiducia nella squadra, io penso che abbiamo dei buoni giocatori, che non abbiamo giocato come Dio comanda, cioè, e ieri sera Siena ha dato l'esempio, perché loro sono davanti a noi in questo momento, meccanismi sia in difesa che in attacco perfezionati. Ho detto, noi prima della partita Siena, ho detto, la differenza fra Siena e noi altri, cioè noi e tutte le altre squadre, loro hanno perfezionato i meccanismi sia in attacco che in difesa. Questo è il nostro lavoro adesso, dobbiamo fare questo, lavoriamo per questa settimana, abbiamo cercato di fare questo, diciamo, reso conto parte mia, rendendomi conto che possiamo fare le cose se riusciamo a migliorare, mi ha dato stranamente fiducia, tranquillità, serenità, veramente confidence, come dicono americano, che possiamo fare qualcosa. Ma ovviamente le prime parole dalla mia bocca che abbiamo fatto una figura che non voglio neanche minimamente pensare di rivedere. Ci ha caricato, siamo pronti a entrare in campo anche noi. Dai. Siamo tutti pronti. Uno dei miei messaggi preferiti. Voi due sapete quanto vi voglio bene. Okay? Senti, Cos, volevo chiederti ancora questo. Non c'entra con l'Armani, ma c'entra con il basket che mi ha fatto far tardi anche stanotte. Però valeva la pena di arrivare quasi alle 3 per vedere in diretta il primo quarto di LeBron James ad Orlando. 23 punti, 9 su 9 al tiro, 5 su 6 ai liberi. Poesia. Lui è il più forte giocatore nel mondo oggi, non ci sono dubbi di questo, cioè, sembra qualche volta che lui gioca 1-0, non so come spiegarmi, cioè, sembra che gli avversari non ci siano, oppure che siano dei bambini del liceo, hai capito? Cioè, non c'entrano niente con lui né atleticamente, né fisicamente, né tecnicamente, né mentalmente, cioè, lui fa ciò che vuole in campo, cioè, non c'è competizione. È una cosa spaventosa vedere lui giocare, cioè è immarcabile, è uno dei 5 giocatori dell'NBA immarcabili, come Derrick Rose, come Kobe Bryant, come Wade. Sono giocatori che forse è anche Stoudemire, che non riesce proprio a trovare la difesa. E io ti dico che noi di Boston vi bastoneremo sia LeBron James che Kobe Bryant e tutti quelli che hai citato prima, che non mi ricordo più niente. Ciao coach, buon ciao lavoro. Ragazzi, a che ora fai allenamento? Alle 5. 5 e mezzo, sì, 5. Ok. Hai in punto, eh? Ok. 5 e mezzo, ciao, siamo tutti lì. Grazie coach. Coach Dan Peterson, ci vediamo per il traffico. Mi tengo naturalmente Oscar Aveni, con cui continueremo a chiacchierare. Uno dei miei messaggi preferiti: non ci capisco nulla di pallacanestro, ma siete fantastici, grandissimo coach. I miei preferiti sono quelli che non ci capiscono nulla, anche quelli che scrivono di Chivu. Lo legga domani, oggi giustamente c'è il basket. Chivu ha fatto a Rossi quello che Ibra sogna di fare a Pato ogni partita, scrive Luigi. Non so perché, sinceramente. Beh, dalle facce sembra proprio così, sì, ma no, però Ibra è così. Ibra è il capo, lui comanda, gli altri l'ha detto bene Yepes nell'intervista che ha fatto, mi sembra, sulla Gazzetta. Ha detto Ibra effettivamente lui vuol vincere sempre, ci sono questi tipi di giocatori che in allenamento sbranerebbero chi li fa perdere. Traffico, poi torniamo con Oscar Eleni. Palla spicchi. Allora, Bigo Oscar Eleni, 800 24 00 24, numero verde per intervenire. Certo che porcata ha fatto ieri Chivu, non c'entra niente col basket, ma stavamo parlando di... No, la cosa che mi ha stupito è il fatto che lui dopo la partita ha detto mi sono vergognato se le mie figlie hanno visto questo gesto, mi sono vergognato. Però in campo, quando Rossi cercava naturalmente la vendetta personale, la sua faccia non era di uno pentito. No. Quindi è una cosa stupefacente, sarà il casco. Ascolta, io ho un altro messaggio. Un allenatore che fa 20-25 minuti di 1-3-1 nel 2001, ovviamente riferito a coach Dan Peterson. Oscar, ma tu secondo te non è anacronistico tutto questo? Tutto questo è anacronistico o no? No, no, non è anacronistico, perché la 1-3-1 è una difesa che intrappola anche con le nuove regole. L'unica cosa è che gli uomini che lui ha presentato a Treviso non erano pronti né per fare quella difesa. L'uomo chiave dovrebbe essere Eze, che adesso è fuori, gli altri purtroppo non lo sono, e mettere Pečarov in coda alla 1-3-1 è come mettere me naturalmente in punta alla 1-3-1. Io peso 98 kg. Roba da mani nei capelli se ce li avessi. Esatto, esatto. Se si sveglia. Siena, ne abbiamo parlato poco, però è magnifico. Vincere a Belgrado davanti a 20.000 persone in quel clima, non è il Pionir, però comunque vincere a Belgrado. Bello, bello, non è banale. Bellissima l'atmosfera del campo di Belgrado. E in Europa ci rendiamo conto che se l'Italia è in quinta fascia, un motivo c'è: da tutte le parti fanno pieno, da tutte le parti c'è entusiasmo, molte parti tirano fuori giocatori nuovi. Noi abbiamo le tribune vuote a Roma, a Siena non si fa oltre i 5.000 persone. E giocatori nuovi non ne tiriamo fuori. Viviamo in questo desiderio di avere i tre dell'NBA. Prima parlavi di Bargnani. Io su Bargnani non metto neanche $2. Su Bellinelli spero che possa diventare il playmaker, perché non abbiamo un playmaker a disposizione. L'uomo chiave sarebbe Gallinari, però quella ginocchiera e il ginocchio che non va bene mi lasciano perplesso, perché capisco gli interessi dell'NBA, capisco la paura di un giocatore che già col ginocchio ha avuto dei problemi grossi. Nell'unico assist che ha fatto Bulleri in contropiedi con la nazionale, lui si è fatto male il ginocchio in Sardegna, e quindi è una cosa che nella testa di un giocatore resta, per cui riaverlo sarà difficile. Sì, però è il momento di rischiare per il Gallo, è il momento di rischiare perché la patria chiama, perché il basket italiano chiama, insomma è il momento, credo, di giocarsi la faccia. Speriamo che gli sponsor chiamino, perché questi ragazzi ormai sono entrati in un meccanismo mentale per cui la patria, sì, la patria chiama, la mamma piange, però è lo sport. Ma della patria la pallacanestro, è il basket. Sì, sì, no, io credo che lui abbia anche questo entusiasmo, perché la nazionale effettivamente non è mai riuscito a giocare, e lo stesso Recalcati, quando lo chiamò la prima volta, mi disse sempre: questo è l'uomo che cambia la faccia della nostra squadra. Anche lui non l'ha mai avuto, purtroppo. L'ha mai visto. Drago da Brescia, primo ascoltatore di oggi. È un amico che ogni tanto ci viene a trovare telefonicamente. Buonasera. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Un saluto in studio. Niente, volevo dire, soltanto deluso del Partizan Belgrado, una cosa che non mi aspettavo. È un grande complimento a Siena, che ha fatto una bellissima partita, anche se sono tifoso anche di Milano. Volevo farvi una domanda, se posso. Prego. Unica cosa che io non considero questo Partizan un Partizan, vero Partizan, quello di Danilovic, di Obradovic, di Divac, perché vero Partizan è solo con i giocatori serbi, giovani giocatori serbi, non con i stranieri, come la penso io. È un'altra cosa, l'unica cosa che mi è consolidata, che i veri tifosi di Serbia sono quelli di Belgrado, non come quelli stupidi che erano a Genova. Grazie mille. Sicuro, quelli erano stupidi e gli stupidi non hanno passaporto. No. Ecco, veri tifosi del Partizan della Serbia, parlo, sono quelli di Pionir, di vecchia Pionir, di tutte le mie campo. No, la capisco benissimo, anche perché mio amico Sasha Giorgevic mi fa una testa così, giustamente col Pionir e con la gente che lo popola, no? Quel palazzetto monumento dello sport europeo. Lascerei stare questi discorsi borderline con la politica e andrei sul Partizan, Partizan che l'anno scorso ha fatto un miracolo con Dure Vujosevic, poi è cambiato tutto, come succede ogni anno al Partizan. Quest'anno un po' meno, insomma, squadra che non fa canestro. Beh, esatto, fa poco canestro. Ieri sera era difficile fare canestro contro una difesa organizzata così bene, così feroce, con un arbitraggio che era un po' che ti confondeva le idee, non sapevi mai se potevi appoggiarti, se potevi toccare l'avversario. Però è stato bello. Io devo dire che il nostro amico di Brescia vive di nostalgia. Anche Milano purtroppo non ha più la squadra che aveva un tempo e bisogna adattarsi ai nuovi. Lui parla degli stranieri, effettivamente non entrano mai nello spirito della società che li assume, perché sono su una porta girevole, la gente dice se non vai bene lì andrai bene da un'altra parte, e adesso bisogna adattarsi a questo. Io devo dire che il Partizan, anche nella partita che aveva perso la settimana prima, mi aveva fatto una buonissima impressione. Hanno bei fisici, bei talenti. Peccato, stranamente è una cosa strana per la storia del basket slavo che non abbiano forza in attacco. Cambieranno anche loro, hanno un allenatore giovane. Adesso lì a Brescia ad esempio avete preso un allenatore giovane anche voi, è arrivato Dell'Agnello, speriamo che il Tigre vi ridia la carica. Drago va a vedere il Brescia, non lo so, non è più in linea, non è più in linea, però Brescia sta tornando, però stava facendo una bellissima stagione, si è piantato esattamente come Torino, dove adesso è andato il mio amico Filippo Faina, che proprio a Torino ha vinto l'unico trofeo importante della sua vita, la Coppa delle Coppe, col famoso Cinzano che è retrocesso in A2. Sì. Quindi speriamo che gli porti fortuna a Torino. Lui se lo merita perché ha passione, non è nonno, è nonno anche lui come Peterson, ha meno carisma, però insomma, per la serie dove è andato a allenare speriamo che porti fortuna. 800240024, un numero verde. Ma oggi non parlate di rugby, più tardi parliamo anche di rugby, perché in epoca di Sei Nazioni concederemo volentieri un piccolo spazio in coda programma per presentare la giornata di domani, di cui poi domani pomeriggio avremo già stasera. Voglia se parliamo di rugby domani. Già stasera gioca. Come la vedi l'Italia? L'Italia è una squadra. Basta le onorevoli sconfitte. No, è una squadra che ti commuove perché fatica moltissimo. L'unica cosa è che sul piano tecnico mi sembra che siamo sempre indietro di mezzo metro, non riusciamo mai a inserirci, ma i sostegni non arrivano quando devono arrivare. E questa è la cosa che dispiace, perché la fatica che fanno, sì, che fa la prima linea, che fa il pacchetto di mischia, è spaventosa. Purtroppo, sembra una squadra di terzini, però. Esatto, ma è 15 terzini. E purtroppo nel rugby non si può giocare per lo 0-0. Però speriamo che qualcosa venga. Il mediano di mischia che abbiamo preso è straniero, speriamo che abbia delle idee migliori dei nostri. Senti questo messaggio. Perché dovrei andare a vedere Roma? Farmi traffico, coda, spendere soldi per vederla perdere vergognosamente? Saluti da uno deluso. Guarda, io ho passato un periodo bruttissimo della mia vita in ospedale ultimamente, e per sedarmi il capo sala, che è il capo degli infermieri di questa clinica, che è un allenatore, si chiama Antonio Tritto, allena ad Esio, molto bravo, è secondo in classifica, e lui per sedarmi mi faceva vedere Siena, me la faceva vedere sempre, Roma mi diceva forse è meglio che non la guardi, Milano vediamo, ecco. Quindi Roma effettivamente è una squadra che mi innervosisce per la sicumera che hanno alcuni giocatori che si credono dei grandi giocatori mentre sono dei modesti giocatori, partendo da Crosariol per finire ad Atome. Li ho fatti i nomi? No, mi sembra di no. Però anche Washington e Traoré non mi sembrano degli esempi. Ma ecco, Washington è entrato in confusione esattamente dopo la prima giornata, le prime due giornate dove le cose andavano discretamente. Washington è andato in confusione, anche lui si crede un grande giocatore. Sono quelli che vengono qui e dicono l'NBA non mi ha visto, ma si sono sbagliati loro. Lo pensava Hall, che ieri ha fatto un articolo secondo me interessante sulla vita dello straniero in Europa. Non ti sembra che abbia esagerato un po'? Sulle buffonate, sulle pagliacciate che ha scritto su Caserta, su... No, ma lui ha esagerato qui, ha esagerato mille volte. È stata la pietra al collo di una squadra che avrebbe potuto fare delle grandi cose. Lui era un personaggio che in una partita ti incantava e nelle altre 10 lo inseguivi col bastone, sì, sperando che cadesse per poterlo colpire, perché era molto veloce. Dino da Treviso, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io stavo sentendo che discutevate un po' sul numero degli spettatori presenti nei nostri palazzetti. Sì. E probabilmente c'è una mancanza di affetto verso le proprie squadre, perché in effetti non rappresentano le squadre di 10 anni fa, 20 anni fa, quando andavi. Io vado al palazzetto. Va al Palaverde, ma è caduta la comunicazione. Intanto, a proposito di... Beh, Treviso è l'ultima. L'ultima. C'è proprio questo dato di oggi, no, sull'affluenza. Più 1% per la pallacanestro italiana nel complesso. Bologna, che straccia tutti, 7.972 di media. Milano in crescita, chissà che sia l'effetto Peterson. Treviso, 2.475 minimo. Ma devo dire che era un discorso che facevo spesso con la famiglia, con Gilberto Benetton. Perché loro presentavano tre grandi squadre, una della campione d'Italia di rugby, campione d'Italia di pallavolo, sì, campione d'Italia di basket. Eppure il pubblico non rispondeva neanche in quel periodo. È vero che per le grandi partite c'era, però si lamentavano sempre di questo e continuano a lamentarsi. E il fatto che adesso abbiano abbandonato proprio nell'anno in cui c'è questo sforzo per vedere se i giovani che sono cresciuti nella cantera, come direbbero a Barcellona o come direbbero gli spagnoli, possono stare in Serie A, purtroppo questa gente non fa mancare ai giocatori l'affetto che invece c'è stato la sera in cui è arrivato Peterson. L'effetto Peterson si è sentito, anche la squadra lo ha sentito, la squadra della Benetton. È una squadra che ha fatto degli 0-5, degli 10-1, quindi voglio dire, è una squadra interessante da vedere, solo che vanno tenuti tutti in un certo modo e soprattutto la gente deve dar fiducia all'uomo che li guida, perché Jasmine Repeta è un buon maestro, un grande allenatore, e questi ragazzi non possono fare i furbi come qualcuno che gira a 5 metri da un blocco, come è capitato a Cantù, come è capitato in altri posti, e Repeta non gliel'ha mandato a dire. Bisogna che anche il pubblico capisca questo e stia dalla parte di chi guida i giocatori e non dalla parte del giocatore, sì, che una volta che imbrocca due tiri si sente un fenomeno. Non è esattamente così l'area di Treviso. Palla spicchi. Ecco che torniamo, sempre vicino a me Oscar e Leni, cui domandano anche perché non punterebbe $2 su Bargnani, poi glielo chiedo. Intanto no, avevi dato $2 o 2 euro? $2. Beh, visto che gioca là. Gioca là, giustamente. Io saluto e ringrazio invece Daniela Brughini. Ciao, sì, Daniela. Ciao, ciao. E uso il tuo cognome da nubile, perché quello da sposata è Materazzi. Sì, diranno chi è questa ora. Ma Daniela, sì, Brughini, perché in ambito cestistico lo conoscono di più. Certo, sì, sicuramente. I 10 umbri che venivano alle partite. Senti, ma la tua storia con il basket, me la racconti? Allora, la mia storia con il basket è iniziata quando andavo alle elementari, 9 anni circa. Sì. Iniziai con i maschi, perché ovviamente le femmine in quello sport c'è poco spazio, soprattutto quando sono piccole. Poi dopo pian pianino si andava avanti e sono arrivata fino alla squadra, la C1, e là mi sono fermata comunque a 18 anni. Perché poi ho conosciuto Marco e tra le due cose abbiamo deciso di puntare più sul calcio. Abbiamo deciso di puntare più sul calcio. Era più conveniente. Male non ha fatto, Oscar. No, diciamo che siamo partiti da zero, però sì, siamo arrivati in alto, pian pianino. Ma volevo chiedere se anche Materazzi, come è capitato a me, l'unica partita femminile che avevo visto io, poi mi sono sposato. Anche lui è capitata la stessa cosa. No, lui per fortuna no, anche perché io ero un po' il corrispettivo di Marco nel basket, quindi qua lasciamo perdere. Ai, lei picchiava. Mia moglie picchiava di più, mia moglie si chiamava Zambone, si chiama poverina. Si chiama Zambone, la chiamavano Monzon, quindi è brutto. Quindi devi regare dritto. Esatto. Senti, sì, Daniela, invece sì, oggi il basket lo guardi ancora? Allora, ti è rimasta questa appassionata? Poco, nel senso che avendo 3 figli, quando hai tempo libero segui per forza il calcio, anche perché i due maschi giocano a calcio, sì, e oltretutto non mi piace per niente, però va bene, e faccio un po' fatica. Sono più attratta dal basket dell'NBA, se sì, posso seguo un po' quello, anche se gli orari delle partite sono un po' scomodi perché alle 2 di notte faccio fatica, però quello italiano al tempo da adolescente seguivo molto e avevo la Virtus con il grande Danilovic, però sì, altri tempi, 100 anni fa circa. Beh, non è mica tanto. Beh, l'altro secolo sicuro. L'altro secolo. Sì, ero una grande fan. Sì. Senti, ma il ritorno di Dan Peterson qui a Milano ha quasi oscurato Leonardo all'Inter, eh? Ma sai, purtroppo il basket non è seguito quanto il calcio, purtroppo, ahimè, e comunque i fan comunque determinano questo, poi non ci si può fare niente. Però certo, Milano è una grande Sì, sì, dai, non so se l'ha oscurato, però per quanto riguarda... Se ne è parlato tanto, insomma, giravi panettieri, tabaccai, eccetera, si parlava più di Peterson che di Leonardo. Che il mio giro è solo calcistico, faccio... Lo so, ma noi vogliamo reintrodurti nel mondo del basket. Fate bene, guarda, io e mio figlio ho provato, però poi anche lì ha vinto purtroppo il calcio. Io all'inizio ho provato, tutti e due hanno provato, ma che adesso punto sulla femmina, mai. Brava, punterò con lei, la porterò, perché vedere le partite dentro i palazzetti è molto meglio. D'inverno sicuro. Sì, sì. Dimmi, Oscar. No, dicevo che Materazzi qualche volta l'ho visto le partite, Zanetti e Cambiasso sì, li ho visti a Cantù. Zanetti e Cambiasso erano a Cantù per la partita. Noi a Milano, sì, abbiamo visto l'Armani Jeans. Certo. Senti, Daniela, io so che Marco stasera ha un appuntamento invece con un nano, Chiambretti. Sì. So che sarà da Chiambretti questa sera. Sei un po' preoccupata per l'appuntamento con il nano? Sì. Obiettivamente i due faranno scintille, forse, non lo so. No, ancora non so niente, guarda, veramente è una novità anche per me. Adesso vediamo, questa sera vediamo tutti insieme. Stasera lo vediamo, poi sarà il caso di risentirci, di sentire cosa succede. Sì, alle 11.30 se non mi sbaglio questa sera. Ma sai, noi siamo abituati a far tardi per l'NBA, 11:30 prima serata. Per voi, sì. Sai che ho un gruppo di amici che mi è arrivato un invito a Stadium, al negozio qua a Milano, dove si incontravano alle 2 della notte a vedere la partita. Mi hanno invitato, però avrei fatto veramente. Però è divertente, è una cosa carina, si sono ritrovati tutti i ragazzi appassionati, è carino, ma certo, una cosa nuova. Poi tra l'altro domenica c'è il Super Bowl, quindi ci sarà una parte di italiani che arriverà in ufficio con le occhiaie il giorno dopo. Speriamo. Quello femminile va un pochino più un po' meno. Daniela, ti ringrazio, ci sentiamo presto, eh? è stato un piacere. Salve, un abbraccio, un bacione, ciao. Grazie a Daniela Materazzi. All-Star Game, Oscar, senza italiani. Beh, ma dov'è la sorpresa? Perché non metti $2 su Bargnani, me lo spieghi? Non metto $2 su Bargnani perché sul piano caratteriale non mi ha mai convinto. Un giocatore di grandissimo talento, è un ragazzo stupendo, gli parli, ti innamori anche di lui, nel senso sportivo, però quando è sul campo non è il tipo di giocatore che mi convince, non è il giocatore che mette un centimetro di pelle a servizio del gruppo, della squadra. È un giocatore di grande talento, per cui io non mi fido mai di quei giocatori lì, perché appunto il loro umore, il loro stato mentale sul campo determina poi il rendimento della squadra. Invece il giocatore che è leone sempre, mi fido di lui anche nella giornata in cui non fa canestro. Invece che quando lui non fa canestro è un disastro. Cole Turkey, tacchino freddo. Ma adesso, qui a Milano avevamo avuto un tacchino freddo che era Firmani, però gol ne faceva. Però è effettivamente così, devi sentire vibrare qualcosa. Ecco, con Bargnani dentro di me non vibra niente. Capisco la gente che è innamorata di questo giocatore, io no. Ecco. Senti, sì, mentre il Gallo sta difendendo con le unghie il suo posto di lavoro a New York, non avrebbe tanta voglia di andare sulle montagne a Denver. Fa bene a difenderlo, ha lavorato duramente, ha avuto sfortuna, il problema della schiena è stato importante, soprattutto quando entri in quel meccanismo, devi fare il conto, è un po' come da noi il calcio. Quando arrivano i giovani in una squadra di calcio, anche dei talenti, se non entrano subito nel meccanismo, e l'abbiamo visto con Gourcuff, l'abbiamo visto con tanti altri, difficilmente poi riescono a trovare spazio, e se non hai la faccia di tolla che ha lui, ti senti emarginato. Lui è riuscito a conquistare anche la simpatia di Spike Lee, che era uno di quelli che l'ha criticato di più il giorno in cui fu scelto. Adesso invece ho visto un filmato, Spike Lee che si alzava su un canestro di Gallo. Quindi è un giocatore effettivamente che crea emozione, un po' come la creava suo padre creava emozione in una maniera strana, però era l'uomo di fiducia di Peterson per le marcature impossibili. Sì, anche perché gli davi passaggi da una parte all'altra di Milano, sai, no? C'è una strada insieme. Beh, non era il solo, devo dire che anche adesso, infatti quando è stato presentato Peterson, la cosa che ho suggerito alla società, dategli un autista, perché andare al forum è difficile adesso a piedi. Perché per esempio il forum, qui Milano si vanta di essere una città europea, domenica col blocco del traffico, mi sai dire quanta gente va a vedere Milano-Biella? Una partita difficile, una partita importante. Come arrivi al forum? Da Milano. Mezzi? No, I mezzi sono quelli che partono dal metro, sì. Ma sono degli autobus sgangherati dove passi i 5 minuti peggiori della tua vita e difficilmente uno esce di casa a mezzogiorno per andare lì. Bici non se ne parla, anche perché andare in giro in bici a Milano si rischia la vita. Beh, adesso quel giorno lì no, domenica no, però arrivare in bici fino ad Assago è dura. Sì. E per esempio per uno che ha 50 anni è dura, per uno che ne ha 60 è impossibile. C'è Paolo da Mantova in linea, buongiorno. Buongiorno a lei e complimenti. Dica, se spero di sentirla. Sì, niente, io volevo intervenire un po', prendo l'occasione perché la sento sempre, ma non riesco mai a portare avanti il mio tema, che è quello dell'organizzazione del basket, perché mi pare che sarebbe ora di dare una sterzata generale ai campionati, magari organizzando i campionati di C1 e C2, a livello giovanile, cioè lasciandoli under 20 o 24 addirittura, e poi magari le promozioni vincolarle non solo alla capacità dei palazzetti ma a quanti spettatori ci sono, quindi insomma dare una sterzata un po' verso l'America, un po' verso la Spagna per il nostro campionato. Io la ringrazio e faccio rispondere a Oscar Eleni, ma secondo me io non sono tanto d'accordo con queste mille regole under e over eccetera, anche perché poi molto spesso si risolvono nel dare un posto in panchina ai giovani, ma non in campo, in panchina. Sì, c'è molta ipocrisia su questo. Comunque una nuova formula è stata studiata, è stata approvata dall'ultimo Consiglio federale. Dino Meneghin, si può dire tutto di lui, che non è nato presidente, però non si può dire che non abbia passione per la pallacanestro, che non viva per il basket. La formula nuova che hanno studiato naturalmente è già stata criticata, però qualcosa si può fare. Nei campionati minori lei dice bisogna far giocare i giovani, giustamente, però io trovo che ci siano molti più over 35 che hanno passione, che starebbero in campo anche 40 ore, piuttosto di molti ragazzi che non vanno in palestra volentieri. E come ha detto Tanevici di alcuni giocatori di Roma, ci sono alcuni che fanno fatica a sudare e quindi non devono fare neanche la doccia alla fine di un allenamento, per cui il problema è sempre questo. Per quanto riguarda il pubblico, la Spagna effettivamente ha fatto grandi cose e i suoi vivai hanno sviluppato una passione, sono meno porte girevoli le squadre spagnole, le squadre diciamo dell'est anche hanno molti giovani. Per quanto riguarda gli altri paesi, la Grecia come noi fanno fatica, perché la Grecia vive sulle due grandi squadre di Atene e poi forse un po' a Salonicco, dove c'è stato un provvedimento del manager dell'Iraklis, che ha perso il derby, ha fatto togliere la maglia a tutti i giocatori, ha preso le maglie, le ha buttate per terra, ha detto voi non siete degni di indossare queste. Ecco, questa cosa potrebbe essere già una rivoluzione. Io sì, con qualcuno comincerei a far così. Senti, ci fermiamo un attimo per il traffico, poi ti porto a Napoli da Massimo. Sì. Traffico. Palla spicchi. Massimo da Napoli, buongiorno. Pronto? Pronto, eccoci. Salve, come saluti agli ospiti. Dica. Allora, volevo fare un'osservazione, volevo magari una risposta su questo. Sì. Io ho seguito il basket, ho 42 anni, quando in Italia giocavano due stranieri. Adesso mi affaccio, perché mio figlio ha cominciato a giocare, noto che non ci sono nemmeno più due italiani in una squadra. Sì. Posso sapere dal nostro ospite se la pallacanestro in futuro parlerà ancora italiano oppure non c'è più la possibilità. E io lo faccio dire da Oscar Eleni. Sì, però c'erano due stranieri, c'erano anche due stranieri nel calcio. Diciamo che il movimento professionistico adesso è cambiato. Diciamo che la Bosman ha travolto tutto, ha massacrato l'idea che il vivaio poteva essere anche una fonte di sostentamento per i club che allevavano i giovani, e adesso c'è poca possibilità di farli giocare, perché abbiamo visto che in Europa Siena, la bellissima partita che ha fatto contro il Partizan, Carraretto e Michelori sono andati molto bene, Ress un po' meno bene, però se Siena deve puntare alle Final Four ha bisogno assolutamente che rientri McCallum, ha bisogno assolutamente che rientri Lavrinovic, e questo è il vero problema. Se ci confrontiamo con l'Europa dobbiamo giocare con i giocatori che il mercato offre. Adesso la domanda è: i settori giovanili paghiamo abbastanza gli allenatori per avere dei giocatori decenti, per avere dei giocatori importanti, oppure cominciamo dai settori giovanili e mettiamo lì il primo che passa? E naturalmente se i giocatori arrivano impreparati già al primo gradino, poi non saliranno neanche il secondo, neanche il terzo, e nessun allenatore rischia il proprio posto, visto che ormai è così la legge, per far giocare un giovane. Ci vuole del gran coraggio. Qui a Milano c'è Melli è interessante, ma non è ancora pronto per la grande arena. Devi andare avanti passo passo, bisogna che in allenamento lui dimostri che merita il posto in campo al posto di quelli che Peterson sceglierà, dei 6-7 che saranno la squadra base. Può essere l'allenatore giusto il coach Peterson per lanciare Melli? Peterson è l'allenatore giusto per sbloccare la mente di giocatori che sono ingrippati, diciamo sono legati a vecchi schemi. Peterson libera la loro mente, loro devono dimostrare il coraggio sul campo. Se hanno un tiro devono prenderselo, se sono in difesa non devono fare passare il loro avversario. Se tu rispondi a queste tre regole, lui ti fa giocare. Se tu vai in campo, fai un fallo stupido, sbagli un tiro aperto ma senza al rimbalzo, ti tira immediatamente in panchina. Lo faceva con i Boselli, lo faceva con tutti, poi hanno capito il messaggio, non stava scherzando quando diceva ti mando dentro, ho bisogno di due punti, come dice lui, adesso io non riesco a fare la sua voce, ho bisogno di due punti, se non mi dai due punti allora rimetto dentro Premier, e infatti era così. Oscar, in molti chiedono, chiamano, scrivono, chiedono di un altro grande allenatore, il nostro amico Charlie Recalcati, è la crisi di Varese. Questa crisi, una vittoria su 9. Però io guardo la classifica e dico: a inizio stagione, avessero detto a Charlie che avrebbe avuto questa classifica a quest'ora, tutto sommato avrebbe firmato. Allora, sai, Recalcati è stato un incubo della mia vita di giovane giocatore, perché al Pavoniano andavo lì, lo sfidavo insieme al suo amico Pandolfi e anche al suo amico Zambano, e perdevo Coca-Cola come se fossi stato un milionario. Però insomma, Recalcati lo avevo incontrato al Trofeo Lombardia e ero perplesso, gli avevo detto: Charlie, sei sicuro di aver fatto la mossa giusta? Lui ha detto: i conti si fanno soltanto alla fine. Effettivamente, come hai iniziato lui il campionato, è l'unico che ha battuto Siena, ha fatto 12 punti subito. Anch'io pensavo che di aver sbagliato tutto, però non ci eravamo sbagliati di tanto, cioè la sfortuna degli infortuni, non potersi allenare in maniera costante, la difesa non è mai stato il suo cavallo di battaglia, e questa è la crisi di Varese. Però una crisi che va bene nel primo anno di stagione di amministrazione di questo consorzio, perché tanto si prende atto di come stanno le cose. Varese è calata negli spettatori, è aumentata negli incassi. Anche questo è un discorso pericoloso e difficile da fare, perché molti dicono sono aumentati gli incassi perché hanno tolto molti ingressi gratuiti, però il fatto di aumentare i prezzi forse è pericoloso. Però intanto è giusto prendere atto di questo. La Varese che c'è adesso è una squadra che non può ricalcare la strada di quelle passate, neanche quella dello scudetto della Stella. Adesso ci sono le basi, se la squadra si salva e dovrebbe salvarsi, qui la base è buona, poi dopo dovranno fare altri conti. Per adesso devono tenersi quello che hanno. Cioè, questo esperimento societario, sappiamo bene come è in Italia è più importante che vada bene l'esperimento societario, diciamo, dei risultati della sicuro, squadra. Ma è quella la partita difficile, perché in un paese come l'Italia è un po' difficile. Qui non siamo all'azionariato popolare, però siamo a qualcosa che gli va vicino. Però se funziona questo, e molte altre società si sono già informate presso Varese per poter fare questa cosa, se funziona questo abbiamo più speranze. Così come diceva Peterson, il fatto che Armani rifaccia il Paralido è la garanzia che Armani resterà, e così il consorzio di Varese è la garanzia che il basket a Varese non scomparirà. Dunque adesso ci fermiamo un attimo, ascoltiamo insieme la presentazione del 6 Nazioni che arriverà già da stasera, domani l'Italia in campo alle 3:30, e in epoca di 6 Nazioni concederemo volentieri questo spazio alla presentazione della giornata della palla ovale. Sentiamo. speciale 6 nazioni. Il meglio d'Europa si sfida pensando già alla Nuova Zelanda. Guarda al futuro il 6 Nazioni 2011. Si riparte dal grande slam della Francia nel 2010, ma la nobiltà ovale del vecchio continente già guarda la Coppa del Mondo 2011 che si giocherà in autunno proprio a casa degli All Blacks. Per gli azzurri esordio contro l'Irlanda di O'Driscoll e proprio contro i verdi di Dublino l'Italia probabilmente si giocherà ai mondiali l'accesso ai quarti di finale. Un duello che inizia domani al Flaminio e che finirà quindi ad ottobre nel tempio della palla ovale. Il CT azzurro Nick Mallett cerca l'impresa a Roma, ma già pensa alla sfida che ci aspetta agli antipodi. È una squadra difficile, ma come dobbiamo vincere contro loro in mondiale può andare in quarti finale. Credo che la partita in Roma è importante, può dare un po' di confidenza alla nostra squadra. E già Nick Mallett guarda al futuro, ma ci sarà ancora lui sulla panchina azzurra ai mondiali? Lecito dubitarne, visto che la Federrugby ha ammesso di aver già sondato la disponibilità del tecnico del Perpignan, il francese Jacques Brunel. Gli azzurri però fanno quadrato intorno a Mallett, il vice capitano Leo Ghiraldini. Credo che appunto la squadra sia molto unita, stiamo lavorando veramente bene. Tutte le voci che ci sono state ultimamente non ci hanno colpito, perché credo appunto che quest'anno sia veramente troppo importante per tutto il rugby italiano e quindi anche per noi giocatori. Intanto stasera si comincia con uno spettacolare Galles-Inghilterra al Millennium Stadium di Cardiff. Prima volta del torneo con una gara serale di venerdì. It's massive, it's good fun, that's what you want to play in, you want to win. That's what you play for England for. You want to go and play small games. Un appuntamento speciale, siamo pronti, sarà spettacolo, non vediamo l'ora di giocare e vincere, promette il tecnico dei Bianchi d'Inghilterra, Martin Johnson. Proprio agli inglesi vanno i favori del pronostico per il successo finale, spiega ancora Mallett. Credo tutti e cinque sono molto pericolosi, ma Inghilterra, se Inghilterra vince la prima partita venerdì sera in Galles, loro hanno 3 partite in casa dopo e poi giocare l'ultima partita contro Irlanda in Irlanda per le Grand Slam. Credo che questa è una partita importantissima per Inghilterra. Ma il Galles, che schiererà Hook estremo, è pronto a giocarsela fino alla fine. Dovremo essere duri e ben organizzati in difesa, efficaci sui contatti e bravi nel rallentare il loro gioco. Questa è la strada giusta, secondo il fenomenale Stephen Jones. Sabato poi, dopo Italia e Irlanda, toccherà la Francia, che ospiterà a Parigi la Scozia. E gli Highlanders, reduci dalle vittorie su Argentina e Sudafrica, potrebbero essere la sorpresa del torneo. Sempre venerdì poi scatta anche il 6 Nazioni femminile. Per le azzurre, che nel 2010 hanno pareggiato con le scozzesi e vinto in Galles, esordio domenica a Rovigo contro le irlandesi. Silvia Gaudino, numero 8 dell'Italia. Non sono male come squadra. L'anno scorso abbiamo perso, ma non poi di molti punti. Insomma, secondo me ce la possiamo giocare quest'anno con loro. Speciale 6 Nazioni. Io ringrazio Dario Ricci che ha curato questo speciale, che domani ci racconterà da Roma la partita, all'appuntamento come ogni sabato dalle 5 su questi schermi, per parlare di rugby e di sport in generale. Oscar, Nick Mallett mi è molto simpatico, parla come olio, ma non so se resterà lui in serra all'Italia. Vabbè, questo non lo so, perché è vero che Brunel è stato contattato, si è fatto certe dichiarazioni ai giornali francesi, non le ha fatte per caso, se poi si è sganciato da una società importante come quella che stava allenando, quindi qualcosa di vero c'è. Però non è questo il problema dell'Italia è quello di poter fare qualche meta, di poter fare qualcosa di più. E mi è venuto da ridere sentendo prima l'allenatore parlare dell'allenatore degli inglesi, perché quando facevo il giornalista ho fatto il primo mondiale di rugby in Nuova Zelanda e c'era proprio la squadra, l'Italia ha preso una bastonata terrificante dagli All Blacks, ma c'erano gli inglesi, c'era il capitano degli inglesi che i nostri chiamavano l'ignorante. Che adesso è l'allenatore della squadra inglese. Mi è venuto da ridere, perché proprio ignorante non era. No, però loro chiamavano così l'ignorante perché non dava tregua. Nella mischia inglese, se capitavi sotto le sue mani, eri rovinato. Gergo sportivo, il giocatore, l'essere ignorante non è necessariamente una diminuzio. Esatto. Grazie Oscar, torno a trovarci presto. Anche a voi, grazie. Grazie Oscar Eleni, Franco Piantarini in redazione, Pietro Lacorte in regia. Mi raccomando, domani alle 5 tutti qui.